Il diario di Q. Venezia, 14 novembre 1548. Notizie reperite sui luoghi frequentati o gestiti da tedeschi. Libreria Algilio d'Argento, specializzata in libri luterani e sacramentisti, di proprietà di tal Hermann Reidel. Friedrich von Melleren, conte, animatore della ristretta cerchia dei letterati tedeschi di Venezia, ha un palazzo proprio dietro al fondaco. Taverna della Selva Nera, gestita da una tedesca sposata con un mercante veneziano. È il ritrovo degli artigiani, intagliatori, orefici, calzolai. Taverna Il Caratello, di proprietà di Ludwig Schalidekar, conosciuto come Il Tedesco, e di una donna greca, il bordello preferito dai tedeschi di rango e borsa buoni. Taverna della Seta, ritrovo dei mercanti, di proprietà di Hans Gastwirth. Si gioca d'azzardo e si cambia il denaro a tariffe vantaggiose. Bottega di Jacopo Maniero, vetraio. Ogni giovedì, dopo il vespro, raduno della comunità calvinista, italiani, elvetici e tedeschi. Venezia, 15 novembre 1548. Un nome già sentito. Ludwig Schalidekar. Dove? Tra gli apostati tedeschi? Qualcosa a che vedere con Wittenberg. Ludwig Schalidekar. Tenutario del Caratello. Verificare domani.